es negada dalla la luna, dalle sue pagine d'argento, dove scrive le impressioni, vestita da 800, e tra Rimbaud e Matisse, cin cin con Mallarmé, uscivi dai tuoi quadri come un Toulouse-Lautrec. Ed in quei campi di lavanda il tuo sorriso provenzale correva come una fanciulla, maschera del tuo carnevale, e tra Verlaine e Baudelaire, il giardino di Gauguin, olio su tela dei cieli, come un Claude Monet. Eri stregata dalla luna, dalle sue pagine d'argento, dove scrivevi i tuoi sogni, al tuo tardo 900.